mai dato, non l'ho mai. Questo ho detto, questo muore con me, e così ho deciso. Ce l'ho quasi 10 anni, ce l'ho. Bene, bene, ascolta, ho una curiosità, se si può dire, ma che antenna hai messo, che antenna hai piazzato? Quella che c'hai tu, c'ho io, la boomerang. Ah, quella grande? Sì. Ok, bene, bene, come stazionario come sei messo? Adesso te la baito, 1,3 così. Ma lo voglio abbassare però, eh. Ehi, guarda, io ce l'ho 1,1. Mi sono appentato quando l'ho piazzata a regolare il radialino, quello inclinabile. Ho trovato la posizione giusta e sono riuscito a abbassare parecchio. Poi chiaramente se salgo dai 20, 30, 40 si abbassa quasi praticamente a scomparire le stazionarie. Ti devo dire, mi trovo ultra bene a questa antenna, poi ho avuto riscontri anche dagli altri amici che mi sentono bene, quindi figurati. Come si dice, squadra che vince non si tocca. Cappa, l'ho montata, quando è? Ieri l'ho montata. Mi sono capitato, l'ho comprata da Fuggiaro e l'ho montata. Ah, va bene, mi cavolo. Mi sta accorgendo che anche il DB, cioè, anche a Gianfranco lo sento più forte adesso, lo sento, molto più forte. Perché c'è per un'antenna che ha 3 dB, la Storm non c'è gli altri DB. Ah, insomma, mi dà avviso che pompa però, eh. Ma non sono le Alien tu. L'unica che ha 3 dB, 3,3 la 5 ottavi. Quello è un quarto d'onda, dovrebbe essere guadagno zero, DBI. Oh, Gianfra, nulla ne sai tu. No, io non so niente, io non credo. No, non ho capito l'interrogativo. No, che Antonio, cioè di fabbrica, la LEM, se è LEM, dichiara quella boomerang un quarto d'onda a 3 dB di guadagno, e 3 dB ce l'ha una 5 ottavi, però quella è un quarto d'onda, dovrebbe guadagnare 0 dBi, giusto? Più o meno. Beh, una 5 ottavi sicuramente guadagna di più, è realmente una 5 ottavi. Le boomerang massimo, se non ricordo male, erano delle mezz'onde, ma proprio le più performanti, le altre sono tutte un quarto d'onda, qualcosa di con la 27, eccetera. Perciò quella della LEM, quelli con 3 metri di stilo, il radiale non me lo ricordo da quant'è, quella originale LEM, cioè, proprio. E qual è la mia, Anto? Scusate l'intromissione. Appa. Avanti, Gianfra. Sì, lo sto dicendo. 4 metri, sì, è già una bella lunghezza, quindi sono tutto, bisogna vedere se c'è carica da qualche parte. Questa volta per me sono dentro quella specie di barilotto in plastica. Sì, ha la carica, cioè c'ha quella carica lunga, c'ha, sì, è fatta così, E comunque anche se caricata toglie sempre qualcosa, quindi è così, se sono accorto c'è ancora poco da fare. Riprendi Marco. Allora, no, vabbè, lo stilo è full size, il radiatore, il radiale è un po' caricato. Quella l'ho avuta anch'io tanti anni fa, lo usava mamma attaccata al terrazzino della vecchia casa. E ti dirò che cioè, in città non c'era problema alcuno, città e dintorni, dai. Eia. Invece quella caricata della LEM, la mini boomerang, è un pasticcio, gli hanno fatto lo stubo di taratura troppo lungo, quindi dovevi o tagliare o togliere addirittura. L'hanno fatta elettricamente lunga, la mini boomerang, è il mio esemplare, ma presumo siano fatte in serie, quindi saranno tutte elettricamente troppo lunghe, dai. Però quello che non capisco è perché scrivono sempre taratta, l'antenna è già tarata di fabbrica. E in quale installazione? Come la tarano secondo loro? A parte che lo stub spesso te lo trovi tutto chiuso per ridurre le dimensioni, no? Tutto chiuso al minimo, quindi come fa a essere tarata in fabbrica? Così diventano veicolari, poi vai a vedere e non sono tarate per niente. Qualcuno si fida, magari ha tre stazionari e poi brucia l'apparecchio. Già ne riprendi. Eia, cosa volevo dire? Vabbè, io da quando l'ho piazzata questa antenna mi ha, voglio dire, come si dice, stracobarato, no? Ha sempre dato ottime prestazioni per quello che è. Poi chiaramente se metto una 5 ottavi, una Game Master o qualsiasi altra antenna più performante, chiaramente miglioro notevolmente le prestazioni nell'etere. Però guarda, la radio è un bijou, cazzo, l'antenna va benissimo, io sono praticamente contento e felice. Poi quando sarà metterò un'antenna un po' più performante, però sai, senza né leggere né scrivere, io e i miei DX anche con l'Inghilterra e in Germania me li sono fatti con la boomerang. Io con l'altra. Ha voglia già, ha voglia, con un'antenna, anche se è un quarto d'onda, però è bella, mi avevi mandato una foto, ti ricordi, dell'orizzonte ottico, no? Quello che vedo, lo skyline, direbbero gli americani, è un bijou quella posizione, cioè non sei in zone altissime, però è libera, il palazzo tuo è libero intorno, è molto molto bella, e figurati con una 5 ottavi, di quelle di lusso magari anche. Porca miseria. E mi sa che io non sono così fortunato, Forse qualche ostacolo ce l'ho. Hai rimesso per me per caso, sì. Vai. Sì, ero un pochino distratto, iaia. Sì, quelle lì, le prime l'ho avuto anch'io, però erano di quelle che avevano inizialmente l'antenna alluminio, il finale era in vetrovendina. Che poi per quello dopo, quello d'alluminio è rimasto nuovo, quello in vetrovedrina, e si divideva in due questa antenna, anche lì c'era il braccetto o la carica. Te la ricordi tu, Marco, erano le prime boomerang, non ricordo se erano della Figlio o di che cosa, a quell'epoca era stata la prima antenna che ha avuto, negli anni 70, vedi. No, mi sono perso la parte tecnica, come erano fatte, hai detto all'inizio del passaggio? Allora, il primo filo, quello che era collegato, diciamo così, al basamento era, che tra l'altro il basamento era abbastanza lungo, era in plastica, no, dentista, era in alluminio, poi c'era una filettatura a cui attaccavi lo filo finale che era in vetroverina, mentre lo tubo, diciamo, era con radialino regolabile a vite su un corpo, diciamo, caricato con del filo arrotolato intorno, non lo ricordo ancora, e cosa il braccio, praticamente un solo braccio che la teneva distante dal tubo, la ricordo? Sì, più o meno, ma mi ricorda crocchi anche particolari, tipo anche Grand Plane mezze caricate e mezze no, cioè magari la prima parte dello stilo leggermente caricata, ci vorrà una bobina, roba del genere, e poi il resto dello stilo tipo in alluminio, una cosa, una via di mezzo, dai, un po' come fanno con le veicolari, capito? Grand Plane un quarto d'onda, poi ricordo anche quelle antenne da finestra, quelle che avevano lo stilo e due radiali, tipo la Balcony, mi pare che i modelli si chiamavano modello Balcony, poi non da finestra, vabbè, da balcone, terrazzino, come lo puoi chiamare? Praticamente si poteva mettere anche a terrazzino perché era abbastanza famosa che la teneva una sola, tra l'altro, bella stessa, però era stata mezzo metro, se la distanziava dal tubo. adesso sono passati, cioè quelle che non ho avuto non le ricordo tanto bene, però cataloghi ne avevo all'epoca, anche vecchiotti, più vecchi anche dell'anno in cui sono entrato, tutta roba data dal CB. Però non ne ho un lontano ricordo. Beh, allora c'era Radio Kit, Radio Rubini, Radio come si chiama, non mi viene. Cioè, Radio Kit e Cicco Elettronica, ecco. Sì, Cicco Elettronica. Ricordo le meravigliose pubblicità dei venditori in ultima pagina o metà. Baracchini anche tipo Super Pantera 11, 40, 45 metri, 80 e 88 metri, tutto trasverter, quindi 40 e 80 metri e dintorni legalissimi, poi all'epoca miei anni 80, ciu, roba che te salte la trovo buona in macchina o anche in casa. Facciamo la pubblicità. Certo, sui giornali c'erano delle ditte che proprio ti erano tipo superstar, no? E li mettevano dentro la scheda, il transverter, no? Dei 40 metri e dintorni arrivava ai 45 metri, oppure anche 80 e 88 metri. Vai Gianfranco. Siamo stati, io in macchina avevo una di quelle antennine fine, praticamente va benissimo. In cima c'era questo tubo lo stesso di quelli a vite, no? Che fissavi un po' il cilindretto, alzavi lo stilo metallico e richiudevi, era accordato in maniera perfetta. Adesso di quelle non ne ho più visto. Aspetta, ma quale stai dicendo tu? Ma quelle a carica distribuita lungo tutto lo stilo, non è gli stili dell'eco per caso, articolo 66, uno stilo per ogni banda, con lo stupo di taratura in punta, quello lì. No, era solo per 27, aveva lo stiletto di acciaio che si va fuori allargando, svizzando il cilindretto, diciamo lì, tutto lo richiudevi era parata. Ed era a carica distribuita, certo che era lunghissima, mi ricordo una che era rossa, l'avevo fatto sul filo fino, ma lungo, che non poteva più. Però va bene. Sì, ma ha già detto di qualcuno, queste antenne veicolari a carica distribuita, cioè non una bobina alla base e poi lo stilo dritto, dice che andassero anche meglio. Molti americani usano queste, per la 27 sempre, queste fire stick, no? Sempre in fibra di vetro, no? C'è da 1,20 m, da 1 metro, 1,5 m, forse anche qualcosa di più, fino ai 2 metri. E lo stesso c'hanno tutta la lunghezza del conduttore, è così, distribuita su tutta la lunghezza dell'antenna, in modo elicoidale, no? E c'hanno mini, io lo chiamo stubi di taratura, e quello lì sì, che molli quella VT, molli la ghiera di serraggio, allunghi con la VT, come hai raggiunto l'accordo perfetto, stringi la ghiera e rimetti il cappuccetto. Poi vabbè, le antenne americane hanno quell'attacco particolare, lo chiamano 3/8 di pollice, una VT praticamente. Certi ci mettono anche un bel mollone cromato alla base se necessario, se non è necessario non lo mettono nemmeno. 3/8, sì, c'hanno questi attacchi strani loro, no? Molto diffuso peraltro da loro, non so. Gianni, riprendi, sto cercando una cosa da mandarti ma non la trovo più. Forse ho distrutto già le prove anche. Gianni, se l'ascolto? No, forse si è allontanato. Sto cercando una foto di un apparecchio, ma non... Boh, si è smaterializzata, vabbè. Vai Antonio. Stavo dicendo 3/8. È che non hai mentito 3/8. No, è solo la filettatura della vite. Cioè, questa antenna non ha un PL sotto, non ha un attacco né PL né BNC né nulla. C'ha una vite e 3/8 di pollice è il diametro di questa vite. 3/8 di pollice, quindi fai 2,54 cm diviso 8 per 3, e insomma poco meno di mezzo pollice. Adesso non mi fare il calcolo, porca miseria. È una vite, è tutto lì. No, non c'entra niente con la lunghezza d'onda dell'antenna. non c'entra niente con quello, il quarto d'ora, no, è un'altra cosa. Ah, scappa, aveva un prezzo bello. Uia. Avanti Gianfra. All'epoca, attenzione, perché c'erano tantissime scelte da antenne, io mettevo quella lì perché la mettevo addirittura all'automacchina, tipo con un certo ricordo delle grondine, no? Ah, le macchine avevano la grondina e le potevo attaccare sul lato destro anche, senza fare buchi nella capocca. Adesso ovviamente queste grondine non le sono più, che poi erano anche utili, pensandoci bene. Sì, mi dico, guarda, la più agghiacciante che ho avuto e che ho visto, che proprio non mi piaceva, però quella c'era, era quella che aveva la ventosa di lato, cioè c'era una parte che si aggrappava alla grondina, come vuoi chiamare, della macchina, e poi la ventosa che faceva presa sul tettuccio lì. Io preferivo molto di più quelle con le due viti a brugola o simili che si serravano bene sulla grondaia, anche se intaccavano la vernice però. Quella ce l'avevo io, infatti. Diga, io un po' di tutto avevo provato, però quella con la ventosa non mi piaceva, perché se poi la ventosa non teneva bene, magari faceva trazione laterale solo su questa specie di attacco, non lo so, vabbè. Tu pensa che sulla 500 di nonno, la vecchia 500 ovviamente, secoli fa era, avevo la PLC 600, PLC 800, era 1,65 di antenna, sembrava una macchinina radiocomandata, sembrava. Sì, poi a quell'epoca la macchina te la priva, no? E come, appena avevo l'antenna, e ricerco... che a me che tra prima, a me me l'hanno aperta 3-4 volte andando a farmare a Platamona. Mi ricordo che avevo progettato e costruito un antifurto con quelle sirene meccaniche, no? Mi rompevano sempre il vetro, perché fortunatamente all'epoca era già assicurato, e quindi stavo sempre cambiando vetri. Non è cosa mi chiede, però non sono mai riuscito a rubare niente, perché quella sirena era fortissima, proprio il portello scattava, non c'era niente da fare, io ho sempre fregato. Sì. Gianni sei rientrato? Vabbè, dai, forse ha avuto una... o l'hanno chiamato a mangiare, per mangiare. Vabbè. Volevo dire qualcosa sulle antenne, vabbè. Poi ho avuto anche una base magnetica che era una cosa obbrobriosa, Gianfra, una cosa indicibile, presa la DBC, aveva la forma di una specie di mezzo uovo di Pasqua, la parte superiore, no? Mezzo uovo di Pasqua, non bella piatta, no, così, bella alta, con un attacco che non so che attacco fosse, avevo dovuto adattare roba, ci avevo messo una frusta nera da 90 cm. Però come oscillava, come beccava i fossi, eccetera, sentivi sveng, si coricava l'antenna. Ah, poi questa bellissima base magnetica aveva il cavo come entrava nella base, niente, aveva una presa PL femmina laterale, bella sporgente, quindi ci doveva infilare il PL di lato. Un obbrobrio, una cosa orribile, eppure quella avevano e quella avevo comprato. Poi gli erano arrivate da GBC. Le antenne CTE, quelle con le basi magnetiche simili a quelle di adesso della CTE, cioè più piatte, e le antenne erano lo stesso in stilo d'acciaio, caricata la base e stilo d'acciaio, e c'erano in tutti i colori, c'era azzurra, gialla, rossa, verde, nera, in base al colore che la volevi la prendevi, attacco PL ovviamente alla base magnetica e quindi anche l'antenna. Quelle erano molto belle, ma i prezzi, non potevo assolutamente spendere cifre simili. Ebbene, allora all'epoca non si era giovane, si doveva centellinare il soldo. Ricordo che il mio primo alimentatore preso la GTC era da appena 2,5 ampere. Ehi, ne avevamo parlato infatti. Comunque quelle basi magnetiche lì le si vedevano anche nei film americani. Ovviamente gli americani con quelli scassoni tre volumi mettevano la base tipo Hazard, no? E anche lo sceriffo di Hazard dietro, sul terzo volume della macchina, no? Dove c'è il baule di dietro. Siamo ancora qua, eh? E io già, ti avevo chiamato due volte, ho detto l'avranno chiamato in casa. E riprendi Gianni, dai, poi voglio sentire Gianfranco se si ricorda quelle antenne lì. Che poi lì in America lo mettevi magnetico con quel trunk mount, che poi lo stesso si aggancia in una fessura del baule, già capito, dai, vai Gianni, riprendi. No, vabbè, mi sono dovuto spostare un attimino, comunque, no problem, come direbbe qualcuno, non so se è andato via anche Antonio, comunque dai, siamo qua, dai, continuate che mi sono perso qualcosa. Già sono qua, io mi assento un attimino, vado io su e mi porto la doccia e poi riprendo, ok? Ehi, non tarderà tanto, sono le 9:05, dai, magari un po' di CV, sì, CV doppio magari, un po' di TV ci sta bene oggi. Gianfranco, riprendi, dai. Sì, non so se te lo ricordi, quelle che poi dovevamo mettere il film, sempre in quegli autocarri che ne avevamo due, no? Sopra quei mega specchietti, l'autocarro, erano altissime. Non ho sentito niente, stavo ingurgitando mezzo litro d'acqua e... Dai, ripeti. Adesso, se te le ricordi, quelle che praticamente avevano... quelli autocarri che avevano le antenne e le specchietti, che erano altissime. Sempre lì, all'epoca, tipo quelle convoi, forse era quel film di quegli anni, convoglio, no? Che si erano ribellati alla polizia stradale. Sì, mi ricordo i nomi attivi, uno era Anatra di Gomma e tanti altri, dai. Comunque, vabbè, questi film, c'è il doppiaggio, bisogna vedere com'è fatto, no? Quindi non so il doppiaggio originale come si sente, l'audio originale come sia, ma non sentivi effetti eco, non sentivi Gaba Gaba, Rutti, Roger Bip, quadruplesa, modulatori, non ne sentivi. Però ripeto, il doppiaggio italiano potrebbe essere falsato, giusto? Insomma, tieni presente che gli Stati Uniti all'epoca non erano come l'Italia. È vero che avevano la 27, credo che ci fosse anche la 46, se non ricordo male, e altre frequenze libere, però se poco si fisicavano con apparecchi, diciamo, un po' trattati in quella maniera, si martellavano forte. L'FCC americana era severissima, proprio norme pazzesche. Figurati che adesso l'FCC non consente agli apparecchi cinesi di andare negli Stati Uniti perché coprono troppe frequenze e devono essere praticamente adattati per essere, tra virgolette, omologati ai loro standard, ecco, alle loro linee. Ah, quindi roba tipo VEU. Ma ho sentito anche parlare della Svizzera. In Svizzera i Baufender non li fanno entrare, li considerano disturbatori di radiofrequenza. E non, a meno che non te lo fai arrivare sotto banco in qualche modo. Cioè legalmente non sono permessi. Proprio i Baubau portatili, sono dei pasticci. Poi prendiamola per buona. Così ho letto, così ho sentito da forum di chi stava in Svizzera, ma le considerano proprio prodotti indesiderati per il mercato svizzero e per l'etere, diciamo, per l'etere svizzero. Ho detto bene, proprio sulla Svizzera, che dà molti dettagli, tra l'altro a differenza dell'Italia, la Svizzera adotta più o meno la stessa legislazione italiana, con una leggera differenza, che lì sono proprio fanatici su tutto, cioè esci appena fuori di un certo valore e annullata. Tu pensa che sono vietatissimi i ripetitori telefonici, no, quelli che quando c'è poco segnale li metti a casa in modo da avere, devono avere delle caratteristiche pazzesche per poter essere ammessi. Se non sono ammessi, se lo trovano, ti rovinano praticamente. E le multe pazzesche, vabbè che sono tutti ricchi lì, se no ti mettono veramente, se sei un po' braccio, sulla terra. Su 20-30 modelli, ho guardato la lista, ce ne sono concessi 3 o 4 appena di questi ripetitori telefonici, censurati le radio, ma con quelle liste sono essere proprio censurati al massimo, perché non lo nominare neanche. Mamma mia, e qua siamo in un paradiso, in confronto all'Italia, l'Italia è un paradiso, è il paese dei balocchi, è... Gianni riprendi, senti qua, siamo fortunati, ed è grossa la cosa, mi da dire. Ma, dai, fortunati è una parola grossa. Oh yeah, mamma mia. No, ho visto la foto che mi ha mandato su WhatsApp della radiolina. Non sapevo del tuo nuovo, passami il termine, incauto acquisto. È una battuta, dai. Si fa giusto per fare un po' di cionfra. Non sapevo che avevi aggiunto nuovi membri alla famiglia. Infatti io un membro non lo trovo, il penultimo membro non lo trovo. Boh, forse ho cancellato la foto, pazienza. Ma, una tua recensione così un po' molto aglio. Capita, mi trovo di intenderti, l'ho interpretato come non ritrovi la terza gamba, dai. No, quello è un altro tipo di membro, dai, insomma. No, aspetta, Gianni cosa mi ha chiesto? Impressioni a caldo, ma di questo. Si accende, funziona, riceve, trasmette. Baracchino come un altro. Però io ho questa malattia, mi piace il modello nuovo, devo prenderlo, a costo di togliermi il pane di bocca. Vai, non voglio esagerare con l'acquisto compulsivo, ma ci siamo quasi, dai. No, senza quasi, ci siamo proprio. Shopping ossessivo compulsivo, probabilmente per questi acquisti così un po' folli, un po' di roba poi che non si usa, o si usa poco, e per compensare l'attuale mancanza di figa. Già ci siamo capiti, dai. Io l'ho buttata così in maniera molto leggera, no, comunque non ho approfondito molto, comunque dai, mi sembra un apparecchio onesto, poi ti ripeto, per la mia molto misera conoscenza, quello che c'è qua a casa già lo sai da dove proviene, quindi è sempre custodito in maniera impeccabile, funziona, va alla grande, a parte il tagliando che ho fatto oggi, e quindi già lo sai, no? Peccato per quello dell'FM, quella cosa lì dell'FM. Comunque anche il 3009, come diceva Gianfranco l'altro giorno, in FM non è perfetto, anch'io devo portare la rifiera a sinistra, da te è molto più accentuata la cosa, troppo. Il clavifero a sinistra per ricevere quasi correttamente, e comunque basta che ci sia qualcuno che poco è largo di emissione in FM che tende a strappare subito. L'ho visto con tutti i 3009 e anche con quello lì. E sono fatti così, dai, a meno che uno non sia proprio un cranio che ci metta mano, che se lo allinea, se lo fa perfetto. Anche Gianfranco l'ha detto poco fa, sti baracchini non ce n'è uno allineato, hanno tutti una taratura molto molto sommaria, sono ben lontani dalla precisione che ha un HF, un HF vero e proprio, capito? Come dire che imbo di Aeswicom. Vai Gianfranco. Sì, ma guarda, io ti posso dire che bisogna sempre provare, vedere con tutti gli occhi se l'apparato si adatta alle tue esigenze, perché a me mi è capitato anche un tempo, ad esempio il TS, o io non lo ricordo, il penultimo qual era, TS 8, no, non era la cosa, vabbè, era quello intermedio, adesso non mi viene che era, dicevano che era un mezzo SDR anche, a campionamento diretto, però poi all'effetto pratico, siccome non era sufficiente a campionamento diretto, a quanto pare sentivamo questo RM. Infatti sempre nel quadro del rinnovamento della stazione l'avevo dato. E quello, guarda, nuovo, del pacca, l'ho messo sotto il centimetro e ho detto, cavolo, già lo so che si sente male, è fuori frequenza, quindi lo posso regolare, eccetera, ci ho messo un passo termofattato, quindi figurati cosa sono, nuovo del pacca, l'ho stretto ad aprirlo, ha fatto tutti questi lavori che poi sono terribili, sono sempre più terribili questi lavori, ai limiti delle capacità. Io ho anche il casco, non per farli, c'ho un casco con delle lenti doppie in modo da ingrandire al massimo, ho dovuto fare una leggera modifica su questo nuovo che mi ha arrivato. Guarda, così si di distruggerlo, perché ce l'è presente la radice di un cappello, fare una soldatura su una radice di un cappello è una cosa quasi impossibile. Quindi ho dovuto seguire tutto il circuito fino a trovare un pezzettino di piastrina che almeno mi permettesse di metterci una microluce all'istante. Ma è una cosa folle, veramente. Sono gli MSD, degli MSD, praticamente i nipoti dell'SMD, di quando sono piccoli, è una cosa pazzesca. Prima erano anche di lì, perché potevano, anzi, forse neanche cazzo. Ma è allucinante, è impossibile, va. Tu te ne dici, Gianni? Veia. No, vabbè, ho fatto la battutina a Marco. Che è sempre lì pronto a cogliere qualsiasi cosa, come si dice, che gli garba lì sul momento, come si dice a livello giornalistico, lui è sempre sul pezzo. ma adesso mi sono dimenticato cosa volevo dire. Adesso mi sfugge, vabbè, Antonio è andato a farsi la doccia. Dai, Marco, ti passo la parola, poi se mi ricordo cosa dovevo dire mi faccio vivo, dai. Sempre questi vizietti sempre soldi permettendo, non sempre, se no. Se avessi uno stipendio pieno lo dilapiderei in poche ore, credo. Già mi immagino. Adesso ho aperto, come si dice, Motozappa e ho visto il penultimo acquisto. E va bene. Anche quello è un altro bel giocattolino. No, io sono, te ripeto, l'ho riacceso quando è stamattina, giusto per vedere se tutto era a posto con la lampadina dello Smitter. Ogni tanto in questo lasso di tempo accendevo così, ma niente di che, proprio uno o due minuti e poi spegnevo, c'avevo la testa altrove e non ero assolutamente accordato con mettermi al baracchino, dai. Comunque, dai, siamo qua e niente, dai, sempre presenti. Al di là di tutto e di tutti, dai, avanti Gianfra. Infatti, immagino che poi con Marco prendi solo apparecchi, non sei appassionato di altre cose. Io prendo, se l'ho preso, attrezzature di bicicletta, poi ovviamente radio, portatili, digitali, pomellate, non ricordo neanche quanto ne ho presi oramai. Poi cosa ho preso? Sì, anche per l'antenna, cavo a quintali, e insomma già tante cose. Adesso ad esempio mi sto dando alla sostituzione di tutti gli apparati di stazione, sono già due, li ho già fatti fuori, devo far fuori il ricevitore per sostituirlo con un altro di ultima generazione. E poi, se ci riesco me ne sto tranquillo, ma ne dubito, no. Anche se una motospendazione. Non sei uscito di radio, Antu, credo. Eia, sono rientrato, sono. Volevo chiedere una cosa al profeta. Tu cosa hai fatto? Lo stilo di su, l'hai isolato, l'hai? O l'hai lasciato così? Antu, non capisco cosa intendi per isolato. Quello dove metti la vitina, gli hai messo qualche isolatore e l'hai lasciato così? No, guarda, ti dico la verità, qualche mese fa, prima di quest'estate praticamente, il vento mi aveva spezzato l'antenna. Hai visto dove c'è quel bullone filettato in ottone? Praticamente mi si era truncato, si era proprio troncato lì. Praticamente la prima cosa che ho fatto, la più semplice, la più economica, avevo delle fascette piccole di quelle stringitubo cromate, molto piccole, che avevo comprato per la moto tempo fa, e niente, praticamente ho usato quelle per unire lo stilo grosso, quello di base, con l'altra metà. Praticamente ho utilizzato tre piccole fasce in acciaio inox stringitubo, questa è l'unica modifica che ho fatto. Ah, capa, ah, perché ci può truncare, non lo sapevo. No, io nel PL ci ho messo un po' di vasellina, ci ho messo, per non crearmi problemi, capito? No, da lì, cioè, riguardo a quella cosa lì, non nessun problema. Ho cercato di isolarlo con del nastro, insomma. Però il vento di mesi fa mi aveva spezzato la... Praticamente cosa è successo? Lo stilo, quello più sottile, era praticamente incastrato in un bullone lungo con la filettatura in ottone. Cosa è successo praticamente? Si è spezzato, quando sono andato a svitarlo praticamente si è aperto come una banana, ok, era frasico. Sai, quindi a livello di MacGyver ho detto come posso riparare l'antenna, così con i mezzi disperati che avevo a casa ho trovato di quelle fascette stringitubo cromate in acciaio inox. Ho pulito bene l'alluminio, gli ho fatto un leggero incavo sia nello stilo quello più sottile che quello più grosso, giusto per appoggiare bene, e niente, gli ho messo queste fascette dove ci sono praticamente le fascette, ho messo delle nastro, le ho isolate bene e l'antenna continua a funzionare. Meno male, dai, meno male, altrimenti non mi succederà qua. Vabbè, adesso questa è nuova. Magari tu ce l'hai prima di me. Cazzo di allo, mamma mia. Eia, no, me l'aveva data, infatti ringrazio Daniele, me l'aveva passata Daniele, che l'aveva usata per un po' di tempo, poi lui ci ha messo un'antenna più performante. Sicuramente sì, vabbè, l'antenna ha già qualche anno sulle spalle, dai, quindi, però dai, visto e considerato la riparazione che ho fatto molto terra a terra, alla buona, però sai, continua a reggere, va bene così, e niente, dai, facciamo girare, avanti a chi tocca. Sì, innanzitutto io per salutarvi, mi ero accorto che era già salutato. Buonasera a tutti, buon provvedimento, riprendi Marco. Ciao. Ciao Gianfà, dai. E anch'io adesso chiudo, stavo sfogliando il giornale della TV per vedere che pasticci ci sono in TV oggi. E quindi Gianfà, dai, buona serata, buon tutto, ma oggi si è capitato bene, Gianni. Magari certi giorni c'è molta meno gente o quasi praticamente nulla per giorni. E Oggi dalle 5 c'era Giulio, c'era Claudio Riporto Torres, adesso il nominativo non me lo ricordo, poi è entrato lo più Rum, Antonio Bombolo, tu, Gianfranco, insomma un po' di movimento c'era oggi, dai. Ma se no certi giorni era molto spoglia, almeno il 10 era spoglio. Ok, dai, riprendi Gianni, mi spoglio il giornale, sto vedendo qualcosina, questa roba commerciale, decor, carino, ma 3 stelle, cos'è? Fantascienza. Ah, quello della, quella fesseria del... Vabbè, riprendi Gianni. Veia. Vabbè, saluto io Gianfranco, grazie per la chiacchierata e per il tempo, per il tempo dedicato, dai, ci sentiamo alle prossime, e niente, buona carica se la devi fare, a presto, ok, avanti Antu. Appa, salutone Gianfranco, ce la risentiamo alle prossimine, cappa, buon tutto, dai. Eia, ti volevo chiedere una cosa, ma che stai dicendo quello che c'è al fuoristrada? Il Land Rover? Stai dicendo Daniele, lui? Ehi, affermativo, Antu. Me l'aveva data lui, un anno e mezzo, cioè qualche anno, sì, un anno e mezzo fa mi sembra. Mi aveva fatto questo regalo, perché lui aveva piazzato un'altra antenna, ha fatto delle modifiche e quindi si era messo un'antenna più grande e me l'ha regalata, mi ha fatto questo regalo e niente, me l'ho piazzata così com'era e è andata sempre bene al primo colpo, dai, a parte questa cosa del vento che mi ha truncato rugoso, comunque sono riuscito a metterlo a posto, ma devo dire che funziona ancora molto bene. Sì, chi è? Ciao, buonasera. Gianni, sono, stai arrivando più basso di prima, 9.5, sì, prima di 9.30. Ah, io, stai dicendo a me, ho già. E allora, ragazzo, io già vedi, a te sto dicendo, lui. Prima arrivavo di 9.30, adesso sei 9.5. Oh, strano, gà. No, qualcosa non va lì in quell'antenna. Ciao, Gianni. Cazzo, ancora 9, sì, dopo lui si è da portare in cana, ci ha dato, fatto. E voi sempre ci hanno mitetti, Forse vuole sollevata già, vuole sollevata un po', perché non è che sia alta. No, diciamo che quell'antenna è come la punti, perché è un po' direzionale l'antenna, capito? Quindi secondo come la punti arriva, dipende come l'hai puntata, se è verso di me, verso l'altra parte, non lo so, capito? Verso il tenno, ero profeta quanto ti arrivi. Prova, profeta. Ciao Doppio, buonasera, ben rientrato. Vabbè, facciamo giusto un test veloce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, non c'è già Badruda, vedi un po' te. Non profeta vivo 9.30. Io non di meno, io ce la faccio, appena che mi procuro la scala mi metto l'altro palo, la metto più in alto, perché quella là era un bel alta, era. Naturalmente questo è un pochettino più basso, ma ho notato che forse qua c'è un qualcosa che non va per il verso giusto, forse sono un po' chiuso dai palazzi, basta che ci sia meno altezza e ti gira subito le palle, basta di poco, anche con la storm mi aveva fatto così. Vabbè, io ti ho detto per regolarti, anche poi non lo so cosa sia, però i segnali sono qui. Li prendi e fai girare, dai, io sto ascolto che sto pure truccare. E cappa. Avanti Marco. Ehi Anto, però vabbè, io ti avrei detto di aspettare qualche giorno in più, qualche settimana in più, però pigliare una 5 ottavi direttamente, purché metterla proprio sulla sommità del palazzo. Voi cosa avete? Tegole giustamente lì, o terrazza calpestabile? No, lì devo revisare, no, che già sono dovuti venire a aiutare per evitare, l'ho messa così, sul tetto così, ma sono sicuro che se metto l'altro palo che è più alto, sono sicuro che risolvo tutti i problemi, perché basta poco, basta. E me l'ha fatto pure la storm, me l'ha fatto questa cosa qua. avevo risolto perché avevo salito parecchio. Con l'altro palo avevo salito un po' di più e avevo risolto tutti i problemi. Comunque è strano, una differenza di segnale tale, adesso vabbè, smitter di baracchino, cioè ci vorrebbe uno smitter del K, no? Però mi sembra troppo, sempre troppo marcata la differenza, sempre troppo troppo marcata, perché così anche da Giulio, cioè la boomerang sì, è vagamente, c'ha il lobo di radiazione un po' leggermente deformato verso la zona radiale, ma non è che sia proprio una direttiva, lo stile è sempre verticale, vabbè, che te devo dire? Gianni, riprendi, dai, il profeta. Ehi, Anto, se hai occasione, controllati bene l'inclinazione del radialino e la regolazione dello stub. Perché quando c'è un'ambulanza sotto a fondo, no? Quindi bastano uno ogni 5 minuti, stavo dicendo, controllati bene l'inclinazione del radialino e l'eventuale regolazione dello stub per le stazionarie. Perché da quello che mi ero documentato, dai consigli di Marco e tanti altri, alcuni problemi erano proprio derivanti dalla regolazione del piccolo radialino, capito? Poi giustamente, come dicevi tu, se c'hai muro davanti che sei un po' coperto, quello rompe un po' le palle. Comunque la prossima volta che magari gli dai un'occhiata, prova a controllare bene l'inclinazione del radialino, che dovrebbe essere di regola, per funzionare bene, a 45 gradi, per quello che so io. E poi niente, se riesci a tirare appena appena qualche palmo più su, già non fa schifo, dai. Scappa. 45 secondo me, all'incirca, non lo so, ma è ben aperto il radialino, Ed è verso la parte della gabbiuria, cioè è un po' un bel po' giù, l'ho messo per non girarmi le balle, capito? Eia, io vabbè, ti ripeto, mi sono preso le misure col goniometro e l'ho messo proprio a 45, vabbè, ho fatto svariate prove prima, ho trovato praticamente un compromesso. Sicuramente tu avrai qualche problema, perché sei circondato da palazzi, quindi da ostacoli, e adesso non riesci ad uscire in maniera, come si dice, in maniera completamente efficiente, dai. Però se riesci a tirare appena appena un po' su, vedrai che anche se è un antenino piccolo già spari lo stesso. La servo ho dovuto fare così, perché se no non riuscivo a uscire così forte come quella là. Ho dovuto mettere l'altro palo, solo che adesso mi viene male. Cazzo, l'antenna è pigiante, entra già nella zappa e cosa. E quindi dovrei avere la scala, quando mi busco la scala qua, che la sto preparando, ho preso una scala e l'ho messa un po' a posto. Me la porto qua, metto la scala, alzo e mi metto il palo più grande. Prendo l'altro palo, sono convinto che cambia dal giorno alla notte. Eia, di brutto. Sì, infatti io sono avvantaggiato perché proprio fisicamente intorno non c'è nulla e quindi sono proprio aperto e libero. Tu sei praticamente più ostacolato, dai. E quindi l'antenna, tra virgolette, ha difficoltà a sfogare e ha bisogno di un cicci di palo in più, dai, ma volendo già si risolve, non è un problema. Poi vabbè, la boomerang è proprio una biuma, dai, non è è leggerissima, dai, se vedi dove l'ho attaccata io ti metti a ridere. Non dire butta. No, vabbè, io praticamente c'è un tubo di un paio di metri dove c'è attaccata l'antenna della TV e in punta c'è attaccata la boomerang, nello stesso palo. Ma stiamo parlando di un palo di un pollice, proprio di quelli stracobarato. va benissimo così, nonostante il vento forte, lo vedo che oscilla, però se non si vede, leggera, dai, la boomerang. Sì, anche io ce l'ho un palo piccolo, perché l'altro è più grosso, l'altro. Cazzo, non ce l'ho messo perché ci vuole forza a salircelo, capito? Io appena che viene la scala qua, la prendo, cambio il palo e la metto su quel palo più grande. Sono convinto che poi la musica cambia e come. Certo, vabbè, chiaramente gli ostacoli che hai davanti ti impediscono di sparare forte, dai. Vabbè, ma tra una crocchia e l'altra già sono sicuro che già la metti a posto, dai. Facciamo entrare Marcolino in parcheggio. Ehi, ma l'anima degli ostacoli, Anto, cosa avete? Imparacci con le pareti di piombo? Allora, dove abito io? Se tu lo guardi a confronto anche a Gianni, diciamo che se tu guardi bene la via, se la guardi da Piazza Colonna Mariani, giri lì in via Coso, è un fosso, in poche parole. Quindi ho bisogno di palo per riuscire a uscire forte, capito? Ehi, comunque già sì, 45 gradi. Quella che tu, che avevo anch'io mi pare, però alcune, non so se le Sirio, ho visto misure diverse, che ne so, rispetto all'asse verticale dello stilo, cioè rispetto all'asse verticale erano tipo 30 gradi, cioè il radiale non era a 45 gradi ma era leggermente più in basso. Io i 30 gradi li misuro, vabbè, lì dall'asse verticale dello stilo, dipende se lo misuro al piano orizzontale, quindi qualcuna ce l'ha più in basso, dipende forse come sono progettate, come sono utilizzate. Comunque Anto, dove c'è lo subliteratura hai detto, no? No, aspetta, sto sbagliando io. No Anto, niente, non pervenuta. Stavo per dire una cosa, una castroneria. Gianni, riprendi. Ehi, no vabbè, quella che io ero una LEM, ho fatto la taratura del radialino a 45 gradi nell'asse praticamente del radiale grande, praticamente ho preso la misura e l'ho inclinata a 45 e vuole, risultati, cioè la realtà è quella. Dopo un paio di test mi ha dato ragione, in base alle indicazioni che ho trovato, ho trovato l'efficienza massima dell'antennino, dai. Considerando che poi anche le sue come si dice, ai suoi contro a livello di stazionale, però per dirti adesso sono sul 10, sono neanche a 1,1. Poi se vado sull'1 magari salgono appena appena, se vado sul 40 proprio spariscono. Quindi voglio dirti, ho una buona larghezza di banda, dai, considerando la crocchio di antenna che ho, dai. Poi chiaramente a livello ambientale sicuramente Antonio ha degli ostacoli rispetto a me, che sono assolutamente libero, e quindi per ovviare a questo dovrà tirare su qualche metro di palo, dai, avanti Antu. Non vuoi un cazzo di vanno, anche con la storm mi sono dovuto comportare così, basta un pezzo in più di palo e avevo risolto tutti i problemi. Ma questo sono convinto che appena quanti metri deve essere da 45 cioè 45 gradi dallo stilo all'altro, quanto deve essere? Ma tu parli praticamente l'altezza che ci deve essere praticamente dallo stilo, cioè al basamento, al tetto, a qualsiasi altra superficie, presumo che lo stilo deve essere libero almeno di un paio di metri, 2 o 3 metri, vero Marcolì? Vieni tu che sei più esperto. Non ho sentito bene il quesito perché stavo cercando qua una cosa. qualcosa della Siri o proprio il coso di installazione, il radiale a 140 gradi inclinato, ma caspita, rispetto, vabbè, sto controllando questa cosa. E ripetete la domanda, tanto come no, 45 gradi, come faccio a sapere che siano 45 gradi giusti? La LEM sì. No, qua Sirio è leggermente più in basso. Dice 140, aspetta che devo vederlo visivamente, se no. Ma come ti cazzo porta a misura a 45 gradi? Perché lui si muove. Io non lo so, come faccio? Allora, prendi una ragazza, no? La posso dire avanti, la metta a 90 gradi. Si chiama goniometro. La metta è 45, inclini il radiale. Che parte da 0 a 180 gradi. Sono quelle squadrette in plastica che si usavano a scuola. Praticamente prendi la base del goniometro e la allinei allo stilo principale. Ok? Cosa fai? A seconda di come metti l'antenna, tu devi ottenere l'inclinazione del radialino a 45 gradi, ok? Poi rovesci il goniometro se hai problemi per regolarlo, ok? Comunque il goniometro deve stare a 45 gradi rispetto alla come si dice? Al radiale, quello principale, cioè allo stilo quello principale, ok? Capo. Vabbè, dai, lo vediamo, perché non è che abbia capito molto, lo vediamo come è fatto. Comunque sono molto amico di Daniele, capito? Ehi, bene mera. No, comunque dai, tanto è facile, cioè una volta che tu prendi l'antenna, lo stilo, la boomerang, la metti per terra, ok? Completa, proprio con lo stilo completo di 3 metri, dove c'è la carica in plastica. Sì, praticamente prendi il goniometro, lo metti proprio perfettamente in asse con lo stilo lungo dell'antenna, praticamente è lì sono misurati da 0 ai 180 gradi. Ok, poi giustamente per metterlo a 45, a seconda di come metti l'antenna, o rovesci l'antenna o rovesci il goniometro, la squadretta, no? Praticamente cosa succede? La boomerang è praticamente è come una lettera L col gambo che pende all'ingiù, ok? Poi se passi sotto casa e corso vico, vedi la mia appesa e capisci subito. Ah, adesso ho capito cosa cazzo è il goniometro, perché non me lo ricordavo più dai tempi della scuola. Vabbè, dai, hai capito, è una mezzaluna con 0, 45, 60, 90 gradi e poi arriva a 180, ok? È facile da usare, dai, basta un attimino ingegnarsi, già trovi la soluzione. Ma è la prima volta che io uso questa antenna, è la prima volta. Alla bella meglio sono riuscito a tararla, dai. Oh Gianni, ho controllato il manuale, 40 gradi le Sirio, cioè leggermente 5 gradi più verso il basso. A parte che il manuale Sirio dice inclinare il radiale di 140 gradi, sì, ma loro lo considerano da là, cioè dalla punta dell'antenna proprio, tutto l'angolo misurato, quello in direzione del radiale, no, dove punta il radiale. Vabbè, io casco, tanto sempre lì siamo, io lo misuravo dall'asse verticale dal basso, comunque 45 non si sbaglia. Certo, tu disegna sul foglio una linea orizzontale e una verticale, no? Dal punto in cui si incrociano è metà che si protende verso il basso, cioè a metà esatta tra la linea orizzontale e quella verticale, cioè 45 gradi che non lo sa. No, ma Nico, infatti è abbastanza facile. Io te l'ho detto, Marco, ho preso il goniometro, ho steso, praticamente ho poggiato l'antenna per terra, ho preso il goniometro, ho misurato praticamente il 45 gradi, me l'ho segnato col pennarello e ho stretto il bullone, e poi l'ho appesa. No, io sai come facevo già, poi la roba di scuola, finito l'anno la distruggevo, poi insegno il disprezzo, vabbè. Allora, mi tiravo la boomerang, io mettevo grosso, a parte, vabbè, bene o male li azzeccavo i 45, no? Gradi. Mi tiravo lo stube di telatura, no? Però se vedevi che più di tanto non scendevano le stazionarie tipo 1-1, perché loro aggiungi 1-1, muovevo il radiale, come lo muovevi verso il basso aumentavano, e quando lo muovevi verso l'alto rispetto al 45 aumentavano lo stesso, cioè c'era una posizione in cui proprio le stazionarie avevano il minimo possibile, capito? E poi vabbè, la sintonia file, sì, buonanotte, la sintonia fine, dunque nella boomerang LEM grande si fa dal radiale, mentre in quello schifo di mini boomerang sempre della LEM che ho si fa dallo stile verticale. Ok, va bene, dipende. Nelle Sirio si fa... Da dove si fa? C'ho la foto qua, aspetta. Ve lo dico subito, eh. E a pigliare gli occhi è uscita la foto. Allora, nelle Sirio il radiale è fisso, la taratura dove si fa, dallo stilo, mi pare. Dalla punta, sì, vabbè, un po' più seccante. No, dipende. Dipende dai punti di vista. Spiega. No, Marco, lì, a livello... Come stavi dicendo tu, proprio di minimo sindacale, ho regolato, ho fatto un paio di prove, ho regolato a 45, poi ho provato a metterla appena appena più chiusa, un po' più aperta, e ho trovato la media giusta. Ti ripeto, guarda, adesso aspetta che mi metto gli occhiali, sono sul 10, con lo strumento attaccato sono praticamente neanche 1 e 1. Poi chiaramente se salgo i canali, cazzo, si abbassa in maniera vertiginosa. Queste Sirio sono molto belle, a me piaceva quella in alluminio. Ci sono due modelli, la Sirio 27A, stilo alluminio, radiale caricato in fibra. La Boomerang 27W, non voglio dire debli o... non sembrare filo americano. Invece c'ha sia il radiale sia lo stilo caricato in fibra. Eia. Vabbè. Un'altra parrocchia, come si diceva un po' di tempo fa, dai. Dai, già lo sai, no? Ti ho fatto vedere la skyline con le fotografie di come sono messo. E sicuramente Antonio avrà qualche ostacolo davanti. Magari tirando su un po' di tubo già si mette a piombo. Dai, avanti Antonio! Chi c'è il problema? Secondo me il mio problema è quello, perché mi sto accorgendo che Porto Torres sono un pochettino negativo, tutta la zona di giù degli punti un pochettino, qualche problemino ce l'ho, e quindi devo salire per forza. Se salgo di palo non ho problemi. Via, aspetta Anto, perdonami, forse ho fatto un po' di confusione. Vabbè, senza elencare la via e l'indirizzo preciso, più o meno il tuo QTH, più o meno dove si trova? Te l'ho detto. Cosa ti posso dire? Via Frigaglia, in quella zona. Ok, allora l'antenna che vedo io è un'altra cosa, dai. Ciappa, vabbè, t'ha detto così, posto di villa, dai. Posto di villa, non ti cazzo di chiama, largo posto di villa, in quella zona abito. Ok, sì, no, giusto per avere una conferma, perché le due antenne che ho visto io sono un'altra parrocchia, dai, quindi stiamo parlando di un'altra cosa. E quindi quello che ti ho detto poco fa, l'antenna che vedo a vista sicuramente non è la tua. può essere. Ho messo tutto ai minimi termini, Gianni e Antonio, perché non... Vabbè, non sono abituato a questo apparecchio, era di 10 watt, adesso sono 3, 3 e mezzo di apparato. La modulazione ha cambiato, è aumentata un po', Gianni, secondo te è rimasta tale quale? Un figurone, è proprio un bijou, 10 allora. Va benissimo, va. In quella zona lì comunque, guarda. Largo infermeria San Pietro, si vede, la mia antenna si vede, da largo infermeria San Pietro si vede. Ok, copiato, dai. Quella che. Allora, io dalla finestra di casa mia ne vedo proprio due. Che sono da tutta un'altra parte, Antu. Quindi ho sbagliato il bersaglio, dai, sicuramente è altra roba. Adesso che mi hai dato le coordinate più precise, ho capito, cioè, nel senso, non sei tu quello che ho visto io, dai, quindi, perché finisco di fumare, ok. No, perché io dalla finestra vedo due antenne, ma dalla parte di Corso Trinità, tu stai parlando della parte opposta, e quindi, stiamo parlando di due cose diverse, dai. Ma fa baita, si vede un condizionatore con l'antenna attaccata, che ci gioco io. Ok, no, perché vai, ci passo, non dico spesso, però, siccome quando cammino mi piace guardare anche in alto, per tutta una serie di motivi, adesso la prossima volta che passerò in zona magari darò una sbirciata, ok? Sì, già, non è tanto lontano. Qui no, che benzina che si frosci, cosa cazzo è? Scusate un attimo, avanti Marco, vai. Sì, vabbè, ho passato tutto, intanto adesso chiudo, dai. Caspita, dalle 5:30, non dico parlando ma ascoltando da quell'ora, un po' sono abbastanza fuso, dai. E vi devo lasciare. Dai, sentiamo fra altri sei mesi già, noi ci sentiamo più poco, ma anche perché io sono molto incostante. Adesso è un periodo che qualche giorno sto entrando un po' di più, però c'è volte sono una settimana senza entrare, 10 giorni. Cioè, ho tutto o niente, io o accedo o non entro mai per un bel po' di tempo. Che te devo dire? Dai, Antonio, Gianni, sentiamo. Ciao a Gianni doppio Roma, se c'è anche lui, poi non mi ricordo se aveva chiuso, porca mia. Ah, stava toilettando il cane, dai. Gianni, se sei, mi saluto neanche a te. Io mi rilasso un po', stendo la schiena, guardo la TV. C'era anche Inception oggi, no? Più cervellottico, ma tanto, visto una volta, sai già come finisce, quindi la sorpresa non c'è più. Ok, riprendi Gianni, ciao, ciao a tutti. Eia. Ciao Marco, grazie del QSO, dai, dopo un po' di tempo che non ci sentivamo, bene meno, dai, fa piacere. Ok, dai, anche io mi sembra che sbaracco tutto, spengo la crocchio, vi saluto anch'io, quindi saluto collettivo a Marcolino, ad Antonio e a tutti gli ascoltoni sul 10. Dai, avanti Antonio per i saluti e alla prossima. Appa, salutoni. Salutoni, ce la risentiamo alle prossimine. Salutoni anche a te Marco. Beh, in effetti sono anche io un pochettino stanchino, stazionare ci sono baciato appena appena, ma sì, il rotolamento cazzo del vento. Salutoni a tutti, buonanotte, poi più vado su di canale più abbassano, via. Vabbè, ciao ciao. Ciao a tutta la truppa e gli ascoltoni, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao ciao a tutti, ciao ciao.